Boom. canto. Di questa mia canzon che sa di pianto. Morte a te Caserio, ardea nella pupilla delle vendette umane e la scintilla e dalla plebe che lavora geme donasti ogni tuo affetto, ogni tua speranza.